e in parallelo alle loro, ai loro racconti abbiamo pensato di fare scorrere insomma una parte del materiale fotografico che è stato scattato come documentazione dalla CLAC tra gli anni 70, 80 e 90, che abbiamo grazie al progetto Scrap digitalizzato, e quindi adesso lo vediamo in forma appunto digitale, non con le diapositive originali che ci sono ancora, abbiamo comunque conservato. Quindi approfitto ovviamente del momento introduttivo per ringraziarvi entrambi, per ringraziare chi dentro la CLAC c'è da ben prima della Mente Comune, che ci ha permesso anche a noi quindi di poter essere qui, di trovare gli edifici, molti degli edifici presenti ancora utilizzabili, e trovare poi tantissimo materiale documentale che è stato molto utile per il lavoro di riappropriazione insomma della memoria storica su quello che è stato fatto qui, e che un pochino secondo noi stava cominciando ad andare perduto, comunque non era sistematizzato come merita, vista la qualità di quello che è riuscita a fare la CLAC nel corso degli anni. E per iniziare darei la parola proprio a Francesco, che così ci può cominciare a introdurre un pochino. Vabbè, allora ovviamente stiamo sentendo il dialogo tra Francesco e Vittorio, allora chiediamo a Vittorio quindi di cominciare lui e spiegare un pochino il macello e l'ex macello nella loro caratteristica proprio fisico-architettonica e funzionale. Intanto buonasera, molto bello essere qua a vedere anche una bella mostra. Penso tutti voi avrete già visitato. Ma penso che mi sentite lo stesso fino a che Matteo sistema, non sistema, no? Adesso sì, adesso io lo avvicino, è così. Ecco, allora come tradizione ci siamo disorganizzati, come merita. Ecco, a me è un po' il compito allora di iniziare di parlare del luogo. Ecco, dopo invece parleremo della CLAC, anticipando che questa non è stata la prima sede della CLAC, ma le prime attività si sono svolte in via Andreini, ospiti del laboratorio di come si chiamava? Di scienze politiche del professor Acquaviva, che è stato un nostro sostenitore ancora dall'inizio. Ecco, il macello è uno dei servizi pubblici importanti che sono collocati sulle mura di Padova. Ecco, allora quindi una piccolissima premessa: le mura di Padova, quelle veneziane realizzate dopo l'assedio del 509, e quest'anno proprio sono i 500 anni di inizio dei cantieri che andranno avanti per quasi 50 anni. Uno degli ultimi interventi è il bastione Cornaro, che alla mia sinistra, opera che non vedete, dove ci sono gli ospedali, opera dell'architetto San Micheli. Il comune di Padova compra le mura dal demanio nel 1882. Da quella data utilizza gli 11 chilometri di circuito, circuito del sistema bastionato, che non è ovviamente il muro, ma sono le aree esterne e le aree interne, con le rispettive strade di circonvallazione. Già all'inizio dell'Ottocento, tra il 18 e il 21 se non sbaglio, con l'amministrazione austriaca era stato realizzato il primo macello, ora scuola selvatico, come sapete, di Giuseppe Iappelli, che è l'autore in particolare del più famoso caffè Pedrocchi. Il macello attuale viene infatti costruito quando quello iappelliano ormai non era più in grado di sostenere la forte domanda, quando la città si era già sviluppata, e era stato già fatto un tentativo che pochi conoscono, di chiamiamolo di ingrandimento del complesso Marcello Iaffiliano. Infatti l'edificio che voi vedete a nord, alle spalle della, dell'ex Macello, ora sede dei costruttori padovani, era una struttura che serviva sia come tripperia, cioè quindi per lavorazione delle carni di maiali, sia anche come ingresso per una cosa molto buffa, ovvero una legge di quegli anni, tra gli anni 70 e 80 dell'Ottocento, era vietato che i macelli pubblici fossero, più che all'interno della città, che l'ingresso fosse in posizioni particolari. Ecco allora che realizzano il nuovo ingresso con le guardie daziarie, le guardie civiche, eccetera, e una passerella che attraversava il Piovego, passerella che poi è stata eliminata quando questa struttura è stata abbandonata. Quindi, utilizzando queste aree già di proprietà comunale, all'inizio del Novecento si decide di trovare una posizione per il macello. Qual è una posizione, anche per le leggi di igiene di quegli anni, qual è la posizione favorevole? È il punto più a valle del sistema idraulico della città. Infatti, una prima scelta era alle vostre spalle, all'interno del bastione Castelnuovo, che è lambito dal Piovego. In seconda battuta si sceglie quest'area perché è servita, arriva a Canale San Massimo, che uscendo dal Ponte Le Gradelle prende il nome di Roncaiete, dove peraltro ci sono ancora i resti del porto del Sale, quando il sistema di navigazione collegava Padova con Chioggia. Chioggia per un periodo era sotto il dominio del comune di Padova, ancora nel Medioevo. Ecco allora che l'ufficio tecnico, qui vediamo una foto del cantiere, l'ufficio tecnico del comune, con presieduto dall'ingegnere capo, l'architetto Alessandro Peretti, che è un veronese, che è il almeno firma i progetti, insomma, che è quello che dirige i lavori, cioè non solo di questa struttura, ma in particolare del foro boario in Prato della Valle, dell'edificio delle poste, di tutte le varie docce comunali che girano per la città, ma in particolare per il Ponte del Corso. Ponte del Corso che è del 1908, quindi è dello stesso periodo di questa costruzione, dove dal punto di vista tecnico c'è un utilizzo per la prima volta del cemento armato, almeno nel padovano, con tecniche, diciamo, non certo d'avanguardia, ma almeno le prime. È da ricordare che qui a Padova, prima di Peretti, c'era stato un altro grande ingegnere, che è l'ingegner Donghi, che era proprio anche lui specializzato nell'utilizzo del cemento armato. Il progetto ha uno stranissimo e lungo iter, c'è anche un fallimento della ditta della costruzione, insomma, la storia è abbastanza sofferta. L'inaugurazione, come ho detto, è dell'8 e degli studi successivi hanno dimostrato che il progetto originale non è come lo vedete qua in costruzione, cioè con il tetto a falde, a padiglione, ma aveva un tetto piano con un enorme lastrone in cemento armato, ecco, quindi una cosa abbastanza demenziale che poi in corso d'opera è stato modificato. Come funziona, e con questo finisco, come funziona il macello? All'ingresso, qui siamo nel grande salone di macellazione Bovini, all'ingresso c'è un tabellone con piccolo plastico, lì ci sono i vari edifici. In sintesi, allora, noi entriamo dalla via Cornaro, che è stata realizzata apposta per realizzare il macello, ovvero con il ponte sul canale di San Massimo e ponticello alle mie spalle per passare la canaletta e la fossa antistante le mura. Allora, all'ingresso c'è la tettoia, attenzione, c'è a destra gli uffici daziari e sanitari, no, a sinistra, a destra c'è la pesa pubblica, importante proprio per il peso, per le merci in ingresso, gli animali in ingresso e per le merci in uscita, ma c'è l'abitazione del direttore del macello, che è un impiegato comunale, e i laboratori del veterinario capo, e questo è il corpo, diciamo, di ingresso, con sopra la terrazza che collega i due corpi di fabbrica. Poi entriamo nel piazzale, sulla destra abbiamo questo grande padiglione di macellazione, eccolo qua, macellazione bovini, vediamo se fosse ancora più semplice. Ecco, quindi dicevo che questa è la casa, a piano terra sono uffici, sono laboratori, sopra la casa del direttore, questa è la tettoia, sotto c'è la pesa, c'è un ingresso anche qua, e questo è per gli uffici di controllo finanziari, eccetera. Questo viene realizzato in un secondo momento, un corpo con la fabbrica del ghiaccio che è gestito da privati e che è stata stupidamente, i suoi macchinari peraltro, demolita nei primi anni 70, ma nessuno allora si era accorto, in fondo mi pare la cabina elettrica. Allora, questo è il grande salone di macellazione bovini, frigorifero che solo una parte originale, poi è stato ampliato. Questo è lo svuotatoio ventricoli, poi vi spiego cosa serve. Questo è il magazzino delle pelli. Questo è il digestore, la stalla di osservazione e il digestore della Stelli. È una macchina per distruggere la carne infetta che esiste ancora. La cosa importante è dire che rimane l'asse principale che poi esce al ponte delle Gradelle, qua con tanto di cancello, che è proprio la vecchia strada di circonvallazione interna delle mura. Poi abbiamo le due stalle, una ovini e una dei cavalli, e quindi deve essere questa più grande. E qui abbiamo invece la grande tripperia per la lavorazione della carne dei maiali, con al numero 5 la grande caldaia con la ciminiera che poi è stata capitozzata per avere l'acqua calda. Qui in questa parte c'erano le tettoie, qui poi noi abbiamo visto crollare purtroppo per tutta questa parte degli anni 70, con gli stallotti di sosta per i maiali che poi venivano macellati e lavorati all'interno di questa parte. Ecco, qui arrivavano, qui c'è una rampa, arrivavano con dei carrettini le viscere che venivano lavate e lasciate cadere in una specie di tramoggia nelle vasche dove poi recuperavano i budelli per fare i salami. Questo era il magazzino, come ho detto, delle pelli. Il casotto del ponte delle Gradelle, che serviva per manovrare una chiusa a griglia, l'arco centrale era stato alzato nel 700 per favorire la navigazione, progetto del marchese Poleni. Sia il casotto che questa parte nella Grande Guerra sono stati bombardati. Infatti questo edificio aveva il tetto a capanna tradizionale, invece adesso è un tetto piano. E questa invece è stata ricostruita com'era, murando però le porte originali e finestre che danno sul ponte. Da qui in poi c'era la casa di custode del canile e di fianco il canile municipale, che è quel corpo basso che è usato dalla Lega Navale, ma in particolare sopra il bastione c'è il grande serbatoio di recupero dell'acqua, probabilmente era acqua non potabile, era recuperata dai canali, per fare le grandi cacciate d'acqua per il lavaggio dei condotti. Se guardate in giro da qualche parte ci sono dei strani chiusini rotondi. All'interno hanno avevano, non so se c'è ancora, ma ci sono i progetti, uno strano marchingegno a sifone per la raccolta del sangue, ecco, queste e altre piacevolezze su cui non mi soffermo. Da questo punto parte un condotto che Adriano ha ispezionato e arriva diciamo almeno 100 metri, quindi vuol dire che non è attivo, ma che serviva appunto allo sgombero delle acque. Ecco, due parole sul digestore, perché è interessante. Ecco, c'è una stanzetta, una grande vasca in cemento come mangiatoia, dove mettevano in osservazione gli animali, diciamo, sospetti. Se l'animale veniva abbattuto, il veterinario diceva che ovviamente non poteva essere venduto, c'era un tavolo, non si può dire anatomico, per gli uomini, un tavolo zoo e qualcosa. L'animale viene fatto a pezzi e messo in una specie di macinino gigante con a vapore, acqua calda, e andava a finire ovviamente nel canale di San Massimo. Quindi praticamente le materie, diciamo, non gradevoli, ecco, uscivano dalla città. Ecco, se pensiamo alla posizione del macello degli Appelli, a quel tempo le mura erano alte, cioè non erano atterrate come adesso. Da quel punto fino al portello ci sono 600-700 metri, quindi il materiale, il sangue, eccetera, aveva il tempo di essere depurato. Questo ve lo dico perché proprio gli Appelli, nella sua perizia di proposta di quella localizzazione, lo dice espressamente: la proposta dell'architetto Noale era all'interno della città, diceva non si possono lasciare budella e altre cose nelle ruote dei mulini. Ecco, quindi diciamo c'era già un ragionamento igienico, scegliendo anche in quell'occasione un punto molto a valle delle acque della città. Quindi con questo è chiuso il discorso igienico. Tre parole dopo che Francesco racconta la storia della CLAC, diciamo tre parole sui restauri. I restauri sono stati è stato molto faticoso riuscire a ottenerli. Noi siamo riusciti a far intervenire la scuola edile, che ha restaurato i primi restauri dei tetti, e poi finalmente con il sindaco Gottardo c'era un avanzo di cantiere e si è potuti intervenire in questo edificio. Questo edificio è stato portato alla situazione attuale, rifatti i pavimenti, è stato fatto un intervento statico molto importante al tetto, che è stato progettato da un nostro amico, che è Giorgio Romaro. Ecco, Giorgio Romaro è un ingegnere strutturista a livello mondiale, è quello che ha rifatto i conti del ponte di Calatrava a Venezia, tanto per darvi un'idea. E diciamo, sul nostro invito, arrampicandosi, anche era rocciatore, si è arrampicato per prendere le misure nei punti e si è accorto che la struttura poteva cedere, è stata legata semplicemente con alcuni tiranti, quindi con un intervento di minimo ha salvato il complesso. Ecco, voi potete vedere che ci sono queste corsie che noi abbiamo sempre pensato all'inizio, che sono collegate al frigo macello, che ha sostituito parzialmente la fabbrica del ghiaccio. Pensavamo che fosse originale, no, questa parte degli anni 60, quando hanno meccanizzato, cioè praticamente dalla macellazione avevano due possibilità: o portare al frigorifero qui alla mia destra, oppure alla struttura che è praticamente la sala di riunione e delle proiezioni del club sommozzatori. Ecco, allora che si è deciso, in maniera molto, molto, molto semplice, di dare un colore diverso. Quindi quello che vedete di grigio chiaro è l'intervento degli anni 60. Tutto il resto, qualcosa è andato perduto purtroppo, perché appena il macello ha perso la sua funzione all'inizio degli anni 70, è partita un'operazione di saccallaggio, quindi hanno fregato i paranchi, alcuni li abbiamo salvati proprio tirandoli su e portandoli, come vedete, in alto. Ecco. Hanno addirittura rubato, non siamo riusciti a capire come hanno fatto. C'era un abbeveratoio in cemento armato lungo 7-8 metri, uguale a quello che c'è all'interno del digestore, con dei finti anelli di cemento, eccetera, che sono venuti con camion e con una gru, perché non era possibile in altre maniere. Diciamo pure, concludo, che un po' la nostra presenza qui dentro ha consentito che questa struttura in qualche modo si salvasse. Sono stati molti tentativi di alienarla, ovviamente l'interesse massimo era quello di espansione dell'ospedale, volevano fare la struttura per le farmacie ospedaliere. Il primo assessore, non diciamo il peccato, non il peccatore, che si è interessato del macello, era un assessore allo sport che è venuto qui, appena visto questi spazi è andato via, perché lui voleva fare delle palestre, non sapeva che c'erano i pilastri. Ecco, con questo direi che ho finito, però qualunque cosa che ci chiedete cercheremo di rispondere. Ho preferito chiedere a Vittorio che spieghi la storia del fabbricato, perché in pratica è il fabbricato che ci ha stimolato a una certa scelta che poi è diventata la CLAC. E la stimolazione è legata a una origine precedente alla CLAC, quando è stato formato nella fine degli anni 60 il WWF di Padova, una struttura associativa che rispondesse al bisogno di diffusione delle tematiche dell'ecologia, non un WWF come era il WWF nazionale, che si occupava delle specie in estinzione, disturbando la pace della foca monaca, e vedeva solo quella. Siamo nati in dissidio aperto con il WWF nazionale, abbiamo tenuto la bandiera alta perché si è riusciti ad avere l'appoggio delle scuole e di una notevole parte della popolazione, e per un paio d'anni abbiamo lavorato praticamente senza sede, con una segreteria che beneficiava di un negozio che vendeva macchine da scrivere sotto le poste, con Renzo Valdemarca, che è stato il primo segretario del WWF di Padova. E il WWF di Padova è nato con un legame tra biologi, naturalisti e qualcuno che aveva una certa conoscenza storica della città. Era apparso subito l'esigenza di poter avere un ambiente adatto a fare didattica dei problemi ecologici senza muoversi nel territorio, anche perché Padova aveva molti giardini e si poteva pensare a una soluzione del genere. È stata scelta quest'area per una cosa che Vittorio si è dimenticato di dire, perché la conosce molto bene. Perché con l'alluvione, l'ultima grande alluvione della fine dell'Ottocento a Padova, l'idea di fare un macello qui già c'era, però la preoccupazione era che un'alluvione lo portasse sotto acqua, quindi portando problemi di infezione eventualmente non superabili in nessun modo. Allora il comune decise di spianare e realizzare poi palazzine in via Michele San Micheli e tutto il terreno di riporto di contraccolpi, diciamo, delle mura di Padova, da Ponte Corvo fino a Santa Giustina, lo troviamo qui. Solo che la differenza è fondamentale. Era un terreno ricavato dalle buche praticamente che avevano creato il vallo davanti alle mura, quindi scavi del periodo cinquecentesco, e prima era terreno agricolo. Quegli scavi sono stati portati a mano con carriole, con mezzi primitivi, al di là delle mura, e hanno fatto il sistema. Già il trasporto per lo scavo dalle buche, dal vallo, fino al riporto dietro le mura, aveva cambiato le condizioni del terreno, perché in questa operazione il terreno si arieggia, diciamo, assume ossigeno. Quando poi il terreno è stato portato da lì con una decoville, una piccola ferrovia a scartamento ridotto, quella delle miniere per intenderci, con dei vagoncini ribaltabili, è stato portato qua, è stato ribaltato, ridistribuito con carriole a mano. Il risultato: si è creato una struttura profonda un metro, artificiale, con un terreno estremamente simile a quello che si può trovare in una foresta originale di pianura che abbia qualche migliaio di anni di insediamento. Cioè, tutto il lavoro dell'apparato radicale della foresta porta movimenti e quindi ossigeno nel terreno. Qui il terreno era già ossigenato per la distribuzione. Infatti, la fertilità di questo suolo è unica perché è artificiale. Noi abbiamo fatto delle ricerche sotto un metro, c'è il terreno agricolo compattato e completamente diverso come struttura rispetto all'espressione che ha ottenuto. Ancora adesso, con i nostri ragazzi abbiamo fatto un'operazione bellissima che è stata la comparazione tra le specie erbacee che abbiamo trovato all'inizio e quelle che ci sono adesso, e hanno potuto constatare l'estrema floridità del terreno. La difesa migliore che questo terreno ha avuto è stato quello di non essere cementificato. È stato pressato nel viale centrale, ma non eccessivamente, anche se guardiamo bene. E poi, diciamo, tutta l'area coperta dai fabbricati, non mi risulta che siano state fatte ricerche delle fondamenta. Probabilmente sono state fatte qua, Vittorio dovrebbe saperlo, ma non credo che siano andate tanto più profonde del terreno di campagna. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto il terreno per creare uno strumento didattico che prima di tutto è stato individuato dal WWF di Padova. Il WWF di Padova è entrato qui non per merito del comune, ma per merito del direttore del Masello. Gli abbiamo spiegato che il terreno sarebbe stato utile per lavorare con le scuole, per farlo vedere alle scuole. Il direttore ci consentì di entrare dal cancello della casetta in fondo viale e, usando la parte non impegnata più dalla macerazione, già la macerazione stava scendendo di ruolo perché arrivavano le bestie già macellate dall'Ungheria, dalla Slovenia, da un sacco di paesi, finché noi costruivamo il nuovo macello dalla parte opposta di Padova, macello che non ha mai funzionato. E sono stati soldi buttati al vento perché l'hanno costruito 30 anni dopo, quando l'avevano pensato, e il mercato era completamente cambiato. E non si riunisce più di una grande macerazione il bisogno della città, ma il sistema arriva con la congelazione di parti addirittura dei bovini, cambiando completamente la dinamica. E tutto questo meccanismo ha dato modo di lavorare con le scuole su un terreno. Questo meccanismo ha avuto come principali collaboratori due o tre associazioni che si occupavano di problemi naturalistici. Ovviamente la Società Naturalisti Italiana, la sede di Padova, era presidente uno dei fondatori della CLAC, e l'associazione dei geologi, associazioni di carattere ambientale. E, riunendo assieme queste associazioni, è venuta la conseguenza di creare un'associazione di associazioni per difendere, proteggere e sviluppare meglio le possibilità che c'erano. C'era ancora la macerazione, perché fino al 76 è rimasta. Nel 75 abbiamo fatto una serie di denunce in tribunale perché macellavano bestie che erano mangiate dai topi, perché le bestie erano molto più grandi di quelle quando è stato progettato l'altezza dei ganci del macello, e quindi i topi riuscivano ad arrampicarsi sulla carne. Venne un celebre magistrato, di cui non voglio fare il nome, perché ebbe molto coraggio, e adesso è diventato uno dei capi dell'antimafia, si accorse di questo e fece chiudere il macello. Il macello venne chiuso e ci siamo trovati di fronte a tematiche complesse per la gestione, per mille ragioni che non sono state facili da superare, però pian piano si è instaurato un concetto che è entrato perfino nella mente di alcuni dei nostri amministratori. Un amministratore che è diventato sindaco è il dottor Montesi per un po' di anni, è quello che ci ha dato le chiavi per poter entrare nella palazzina, ma ci ha consegnato le chiavi. Non siamo entrati con contratti particolari in condizioni che sarebbero state auspicabili. Venne poi un secondo sindaco che era Settimo Gottardo. Il problema era sempre quello del senso legale della nostra presenza qui. Gottardo riuscì a far varare un vincolo per il club sommozzatori, che era una piccola sede assolutamente inadatta dall'altra parte della città, lungo il Bacchiglione, e il club sommozzatori a sue spese restaurò la parte assegnata e si inseriò legalmente. Finché noi c'eravamo, ma eravamo in una situazione precaria, così precaria che quando è stata ufficialmente fatta la CLAC, non è nata qua, come ha detto Vittorio, ma è nata ospite del professore Acquaviva vicino a via 20 Settembre, in via Andreini, dove c'era una sezione staccata di scienze politiche. E c'era una stanza che era il trionfo delle nostre idee, perché c'era un gigantesco affresco di Don Chisciotte. E questo significava lo spirito di impegno e l'accanimento che potevamo sviluppare. Ci siamo stati 4 anni. Sono stati 4 anni in cui si è iniziato un rapporto di confronto e contesa contemporaneamente per le esigenze della città. Siamo riusciti a costringere con la forza dell'opinione pubblica, delle scuole soprattutto e dei cittadini, il comune a fare le fognature. Il comune non aveva fognature, scaricava nel canale. Figurate i canali in che condizioni erano. E il centro storico fu il primo lotto di insediamento fatto sempre da quel pretore meraviglioso, che era diventato anche abbastanza robusto, tenne il comune sul filo del rasoio di una denuncia finché non terminò tutte le fognature del centro storico. Mario Campora era assessore, fece il lavoro bene e, diciamo, anche con un certo rispetto del fatto di che scavando veniva fuori tematiche che erano della sovrintendenza. E per esempio, dove abito io, vicino in Piazzetta Colonna, in via Tinate, è uscita la via Annia romana che portava del Tino, e il comune ebbe la delicatezza di scaricare della sabbia sopra la via Annia e lì sopra la sabbia appoggiata la fognatura. Quindi, per carità, un domani si porterà via la fognatura, resta la via Appia, 4 metri, 3 metri e mezzo sotto il livello di campagna, di piano di via Antinante. Per citare un esempio, ma sono venute fuori, per esempio, tutte le gallerie con sezioni trasversali, ovviamente, che legavano i conventi, ed erano passaggi sotterranei, se fate un salto in sovrintendenza, trovate i rilievi, ed è stata un'occasione per rendersi conto del reticolato di passaggi sotterranei che aveva Padova. Io mi ricordo una bellissima serie di copie di passaggi in via Santa Sofia, 2-3 metri sottoterra, passaggi attrezzati bene, con delle tene che potevi costruirci sopra, non venivano mica giù. Sapevano costruire le gallerie, erano gallerie di arroccamento tra i vari conventi, quando di giorno non era pericoloso circolare, probabilmente, non volevano farsi vedere. C'è un residuo di queste gallerie in piazza del Santo, dove un palazzo con una celebre loggia, il Palazzo Cornaro, esprime una galleria sotto che passa la strada e va a finire nel palazzo del proprietario. A Bisi Cornaro stava dall'altra parte della strada, faceva i suoi festini di qua. La galleria gli faceva molto comodo, evidentemente. Credo che sia percorribile, non vorrei sbagliarmi, ma Vittorio è un pozzo di scienza da questo punto di vista, perché è la curiosità fatta studioso. Ecco, vorrei dire questo. Ora, la CLAC è partita subito con alcuni concetti. Il concetto fondamentale: non essere influenzati né in maniera confessionale né in maniera politica dai partiti o dalle strutture religiose, perché avrebbe nociuto il ruolo di indipendenza con quale si poteva rivolgere alle scuole. Questo meccanismo ha funzionato sempre, è stato l'asse portante dell'operazione. L'asse portante dell'operazione era comunque la formazione dei giovani attraverso il rapporto con le scuole. Ha funzionato bene, nonostante le mille difficoltà che la CLAC ha avuto anche dei periodi molto validi, perché la Regione Veneto nell'84 l'inserì nell'elenco delle strutture che erano finanziate dalla Regione senza porre limiti alla loro libertà di espressione, che era la legge 51-84 regionale. Durò 22 anni. In 22 anni noi abbiamo fatto salti incredibili, perché siamo passati da un ambito locale a un ambito internazionale. Siamo entrati, invitati a entrare all'UNESCO, non abbiamo chiesto. Cioè, il nostro modo di lavorare, la nostra mentalità, la funzione, che non vi posso certamente raccontare adesso, però ho dei ragazzi splendidi che stanno cercando di fare la storia dai documenti. Le vicissitudini sono state moltissime, ma l'asse portante è rimasto intatto. finita nel dopo 22 anni il finanziamento regionale è condizionato all'approvazione dei progetti delle singole correnti che comandavano in regione, abbiamo dignitosamente rifiutato e abbiamo avuto difficoltà economiche, ma siamo riusciti a reggere lo stesso. Il fatto che la CLAP sia diventata un posto che in 35 anni circa è stata visitata da 600.000 persone e abbia espresso adesso un planetario che ha fatto 100.000 persone all'anno, con previsione anno futuro di forse aumentare ancora, dà l'impatto che una struttura come questa ha potuto esprimersi. Non abbiamo mai avuto un incoraggiamento forte da parte del Comune, che ha sempre cercato di vedere altre funzioni, tra cui una grande funzione che era quella di fare piccole mostre di artisti, tante robe, dove non veniva nessuno, perché un posto nella stessa strada dove c'è l'obitorio dell'ospedale e non c'è parcheggio fuori, non puoi fare una grande mostra qua, perché non c'è modo. Noi abbiamo tentato più volte di fare delle mostre di carattere scientifico, veniva alle scuole, perché i pullman ti portavano alle classi e li portavano via, ma le macchine fanno fatica a venire, perché se c'è un parcheggio è occupato dall'ospedale. Adesso forse l'ospedale andrà via o cambierà natura, io non credo che vada via, e quindi probabilmente resteranno questi problemi. Ma è cambiato, sono cambiate le prospettive. Andiamo verso un periodo molto lungo, che sarà 10-15 anni, di difficoltà economiche per adeguare la mentalità europea a quella globale, e bisogna vedere le cose da questo punto di vista unicamente. Stiamo rincorrendo fantasmi, come sempre, perché siamo impreparati, ma la realtà è la realtà, e chi comanda sono le grandi potenze e non sono le potenze precedenti, sono le nuove potenze emergenti. Bene. La Regione è dell'opinione che una struttura come la nostra ha una qualche buona probabilità di continuare ad esistere. Molte altre strutture cederanno, come hanno ceduto, perché strutture che stanno in piedi, se c'è il finanziamento, e il finanziamento deve essere significativo, allora vale la pena lavorarci, in periodi di lunga crisi non possono reggere. Mantenere in periodo di lunga crisi lo spirito di indipendenza che ci ha qualificato, soprattutto all'estero, come un taglio legato alla formazione dei giovani e quindi a un equilibrio di consensi, non a una linea particolarmente distorta, inclinata da un lato, come potrebbe essere quella di una visione, di una speranza politica, diciamo, che poi diventano miti, come ben si vede. Un meccanismo del genere ha una buona probabilità di stare in piedi. Io non posso che augurarmi che di nuovo lo spazio possa produrre chi lo utilizza bene. Ed è abbastanza facile, probabile, che questo succeda. Chiudo questo discorso con un tentativo che sto esaminando e nel quale vorrei riuscire anche a permettere il salvataggio di una documentazione straordinaria che abbiamo. Basta pensare che sto lavorando con la Facoltà di Medicina sul materiale che abbiamo salvato in archivio di Stato. È materiale che ha un valore immenso e l'abbiamo salvato solo grazie alla segnalazione che ci ha dato un amico che non voglio neanche indicare, ma qua vicino a me, e abbiamo salvato la bellezza di 8 camion di documenti antichissimi che sono la radice più profonda della storia della medicina a Padova. Bene, un futuro per chi abbia voglia di lavorare, c'è un futuro per chi abbia voglia di confrontarsi in maniera corretta con le persone, c'è. Lo spazio avrà dei problemi di statica, avrà dei problemi di restauro. Noi abbiamo indicato e forzato un po' la mano anche per avere una scuola di restauro come la scuola edile, che ha restaurato un pezzo crollato da un'invernata tremenda. Bene, sono stati così bravi da fare una legge per cui le scuole edili possono, da allora in poi, ci hanno bloccato, abbiamo fatto il restauro, a Roma ci hanno bloccato, perché non possono andare più alte di 3 metri. E così uno impara a fare i pavimenti per terra, non può mica imparare di più. Si può imparare a fare una casa, fa una casa piatta, una dimensione. Evidentemente questi politici avevano il concetto di una sola dimensione, un mondo piatto. Non vedo altre giustificazioni. Al di là di questo, abbiamo esempi negli 8 laboratori che sono collegati a noi, alla rete dell'FWD UNESCO, degli Amici di Tesoro del Mondo. Bene, ce ne sono 2 che lavorano sul restauro. Uno in Germania sulle case in argilla e legno e l'altro in Francia sulle case in pietra, le strutture medievali. Con la pietra, diciamo, scelta e lavorata col minimo impegno della persona. Quindi una rete di decisioni assunte per incastrare bene la pietra adatta. Concetto medievale stupendo, perché la casa vive perché è fatta da una persona che la pensa. Certo si mette 20 anni a farla, però noi ci mettevamo 100 anni a farne 1020, mica un giorno. Vi passo il Vittorio perché ve l'ho raccontato già abbastanza. No, direi che non sono mai abbastanza, perché proprio le prime parole che ha detto il nostro bravo segretario della CLAC hanno riassunto perfettamente come è nata la CLAC, nel senso che effettivamente è stato il WWF che, in totale, diciamo, dissonanza col WWF nazionale, ecco, con tutta una serie di amici carissimi, alcuni di questi ormai non ci sono più, hanno dato vita a tutta una serie di iniziative, non solo con il comune, ma in particolare con la provincia di Padova. Sì. E questo lo dico perché, mentre Francesco parlava, mi è venuto in mente che qualche anno fa, quando ho seguito i primi studi sull'ospedale di San Francesco, l'ospedale di San Francesco che abbiamo scoperto noi, perché allora era di proprietà della provincia, comprato in maniera clamorosa pensando di mettere a sede l'archivio di Stato, senza sapere come è fatto un archivio di Stato, quando la legge degli anni 60 obbligava ogni provincia di realizzare la sede provinciale degli archivi. Ecco allora che noi abbiamo conosciuto, tramite, mi ricordo, vari assessori, come Brugnaro, come Fagionato, abbiamo conosciuto questo stabile e per un breve periodo abbiamo avuto anche a disposizione uno dei negozi con il mezzanino. Infatti, quando l'Università di Padova, insomma, la vicenda è lunga, ha predisposto il progetto di restauro per realizzare il Museo della Medicina, e io sono uno di quelli che ha firmato il progetto esecutivo, e visitando, per fare i rilievi, l'indagine complesso che ha dato tra l'altro delle sorprese straordinarie, speriamo che presto sia aperto al pubblico, ormai si è fermato tutto, ecco, ho trovato le carte del WWF, ho trovato anche dei miei disegni, ho trovato attaccate con le puntine, come se l'avessimo abbandonato il giorno prima, quindi mi ha fatto dopo 30 anni una certa impressione. E 30-40 anni, ecco, io venivo qui con i miei figli, ecco, mia figlia si ricorda perfettamente, quando era bambina e veniva qui a giocare, adesso lei ha 40 anni, quindi i tempi sono sono questi. Poi Francesco ha accennato il discorso del salvataggio di cosa? Del fondo archivistico dell'ospedale di San Francesco e di due delle sezioni del tribunale che si teneva in salone. Materiali che erano stati portati nel Cala del Fascio, in quanto edificio demaniale di Tombolo, per... Sì, beh, hanno fatto vari giri, per cui la direttrice dell'archivio di Stato, con cui avevamo ottimi rapporti, ci aveva segnalato questo problema, cioè stava crollando la casa di Tombolo. Ecco, allora la provincia ci ha dato 7 camion, non 8, vedi che col tempo crescono di numero, ma sono 7, e con una scuola a Tombolo e una scuola a Padova abbiamo caricato questi camion tutto il materiale che era stato confezionato dai tecnici Tombolo, Gran Torto, scusatemi, Tombolo, vedete la memoria. Tombolo invece lo inserisco per chiudere il discorso sul Macelli, perché è molto interessante. Tombolo era il comune d'Italia con più alto reddito, perché? Proprio perché era legato alla compravendita del bestiame, e questo probabilmente è la ragione per la quale è stato dato il finanziamento a Padova, alla provincia di Padova, per creare il Frigo Macello, che peraltro è un'opera d'architettura contemporanea, forse la più interessante che abbiamo in città. Però, come ha detto già Francesco, non ha mai funzionato. Peraltro a Tombolo il bestiame passava sugli assegni, sui capogramma, sui telegrammi, cioè, quindi non avevano mai visto una vacca, ecco, penso a Tombolo non sono passate. Ultimo discorso, le gallerie sotterranee della città. Ecco, io non credo proprio che fossero collegate con i conventi, però sappiamo perfettamente che ci sono moltissimi cunicoli, molti legati ai canali sotterranei, eccetera. Qui abbiamo Adriano, che insieme al Comitato Mura, una delle associazioni che è nata poi nell'ambito della CLAC, stiamo proprio indagando su tutte le strutture ipogee della città. In via Cesarotti, come ha detto Francesco, effettivamente esiste il passaggio che dalla loggia Cornaro e dall'Odeo, quindi della proprietà di Alvise Cornaro, si attraversava la strada. Negli anni 30 è crollato un voltone, c'è cioè una fotografia, e poi l'hanno richiuso. L'università ha comprato anni fa il lotto di fronte, cosiddetto ortazzo di proprietà di Alvise Cornaro. Prima cosa che abbiamo fatto, siccome bisognava verificare la localizzazione degli impianti di sottoservizi, abbiamo scavato su tutto un bel fronte pensando di trovare la galleria, ma la galleria c'è sotto la strada, ma non è più recuperabile perché è stata eliminata. Ecco, io penso che adesso... No, la parte sicuramente c'è, ci saranno i ruderi, io ho trovato da dove parte da una casa privata, però è murata. Se qualcuno di voi ha qualche domanda, qualche curiosità da chiedere, penso che possiamo rapidamente rispondere. Sì, beh, interesserebbe sapere se ti ricordi la sezione di quei condotti che hai visto in via Santa Sofia. E ne si passava un uomo non troppo grosso. Ma che sezione avevano? La cappuccina, il tetto voltato, com'erano? Ad arco. Ad arco, e sono stati larghi un'ottantina di centimetri, erano abbastanza angusti. E si può sapere, perché se andiamo in sovrintendenza hanno tutti i rilievi. Va bene. Potrebbe valere la pena. Prego. Noi abbiamo cercato di allargare il discorso ad altre città, facendo a Venezia, a Treviso, a Verona, a Vicenza e a Trieste delle proposte dalle associazioni molto simili a quelle della CLAC. Le abbiamo fatte 10 anni dopo del nostro funzionamento. Sono state tutte massacrate, perché evidentemente l'esempio a Padova, avevano dovuto inghiottire il rospo. Devo dire questo senza paura di mancanza di rispetto, perché il rospo era il rospo. E nelle altre città hanno, i più abili hanno tagliato a metà il problema, dando grandi mezzi a 2-3 associazioni e massacrando quelle più piccole. Trieste è l'unica che, l'ha rimasto, che è rimasta in piedi, in funzione, perché aveva il problema di valorizzazione e difesa della zona carsica sopra Trieste, nelle colline sopra Trieste, c'è ancora, funziona. Per quello scopo ha funzionato bene, tanto che è diventato parco nazionale, eccetera, protetto. Verona ha avuto un fallimento clamoroso, perché è riuscita ad avere allora 250 milioni per restaurare un vecchio fabbricato e farne la sede delle associazioni culturali. Chi ha maneggiato i soldi l'ha distorto, facendo invece un alloggio per praticamente un albergo per i giovani. È in mano i ricali in quel tempo lì, e i 250 milioni sono svaniti nel fare un ostello della gioventù. Servito, ma non allo scopo. Le associazioni sono rimaste divise. E questo è un particolare. Evidentemente il nostro concetto è un concetto anomalo per la nostra società. Dico con amarezza questa parola, ma la società è in grado di firmare la condanna di se stessa tranquillamente, perché si vede come reagisce alle difficoltà, creando fantasie di spese enormi, inutili, invece che scelte essenziali, che è il preludio del collasso di una società. Farsi vedere viva quando è già morta. Non dico questo come modello di studio, però ci siamo vicini. Ecco, venuto in mente altre due cose che posso dare qualche informazione maggiore. Una sul discorso del livello del pavimento, del piano di calpestio, diciamo, originale. Effettivamente è un metro e venti, però non sappiamo in quale zona, se in tutta l'area o su una parte dell'area. È stato il genio civile a obbligare, appunto col pericolo di inondazioni, cosa mi pare abbastanza curiosa, di innalzare il terreno. Terreno recuperato dai terrapieni residui, attenzione, perché erano già stati utilizzati i terrapieni per gli anni 80 dell'Ottocento per interrare tutto il canale di Santa Sofia. Ecco, il terreno è stato recuperato fino a più o meno al bastione di Santa Giustina. Per cui le fondazioni, questo è un discorso importante anche dal punto di vista statico, quindi sono molto più fonde di quello che serviva, perché erano state già fatte. Quindi l'innalzamento del terreno è stato fatto in corso d'opera, non è stato fatto preliminare. Quando sono andato a vedere il cantiere del corpo a T, la parte in fondo, a parte che hanno recuperato una grande sala sotterranea, un fognolo praticamente, per i residui, che poi è collegato col Piovedo, con San Massimo, col canale, lì le fondazioni non sono molto profonde. Quindi la mia impressione è che lì il terreno era già più elevato, però esistono dei documenti con le quote, quindi si potrebbe, se servisse, studiare la cosa. L'altra questione è, se voi guardate uscendo, c'è un muretto basso. Questo muretto parte da Piazza Mazzini, dalla barriera, ex barriera Mazzini, ed è parte come passeggio pubblico nel 1901, gira tutta la città e arriva fino al bastione Santa Giustina, cioè quindi facendo tutta via San Micheli, per dare lavoro ai muratori, in particolare nelle stagioni che non avevano lavoro, quindi nel periodo invernale. Quindi i terrapieni andavano eliminati, le mura venivano capitossate, il materiale veniva tritato e veniva venduto come materiale per massicciate, per fondazioni, e il muretto, spesso con mattoni di recupero, veniva costruito. Se voi pensate, allora partite da Codalunga, pensi che rimangono, arrivano al Giardino dell'Arena, arrivano al Macello Iappelliano, ecco, da lì fino al Portello Nuovo, però il muro è pieno perché il Piovego poteva esondare in città attraverso appunto i fori. Da qui in poi continua, passava tutto attraverso l'ospedale e faceva tutta via San Michele, meno alcune porzioni, ovviamente non i bastioni e il baluardo Cornaro, un breve pezzo delle mura che avete qua alla mia destra. Quindi la leggenda metropolitana che le mura sono state abbattute dal sindaco Crescente e dal rettore Anti sono una balla, perché erano state già le mura demolite tranquillamente prima della guerra, entro il 14 hanno finito questa operazione. Nel dopoguerra poi purtroppo la collocazione urbanistica dell'ospedale è stata mantenuta, quindi le mura sono state tagliate in un paio di punti dove c'è l'ingresso del pronto soccorso e basta, erano già state demolite in abbondanza. L'ultima cosa riguardava la nostra attività, come ha già accennato e sintetizzato Francesco. Dicevo che i primi rapporti li abbiamo avuti con la provincia, infatti abbiamo avuto un forte peso, Francesco lo può testimoniare, per il Parco Colli. Prima che fosse istituito con la legge c'era il comitato provvisorio con il segretario Moro. E proprio grazie alle competenze dei nostri colleghi, tutti giovani, le nostre competenze diciamo naturalistiche dei vari settori, biologico, zoologico, eccetera. E però ci siamo anche interessati della città, infatti, e se non le avete nell'archivio ve le darò, ci sono le prime relazioni per il Museo Civico. È stata fatta una fortissima operazione quando era il momento se restituire, tra virgolette, o meno il Museo Civico ai frati. Ci siamo interessati anche dal punto di vista legale della questione, sono fuori cose anche molto divertenti, del tipo che tutto il complesso di Sant'Antonio, che è stato indemaniato da Napoleone e poi mantenuto in quella veste dagli austriaci, con un contratto austriaco c'è scritto espressamente che è d'uso perpetuo ereditario del comune di Padova, con alcune clausole, tra cui una molto divertente, che prevedeva nel caso di realizzare un collegio femminile o un istituto di discoli, cioè un riformatorio, l'ingresso sia da via Orto Botanico, cioè non doveva affacciarsi nella piazza. Se voi guardate e leggete quello che c'è inciso sulla facciata, c'è scritto Museo, Biblioteca, Archivio, perché all'interno, con soldi del Comune di Padova, è stato realizzato dall'ingegner Maestri un magnifico volume moderno, con strutture in ghisa all'interno, che era l'archivio storico della città di Padova. Archivio che poi, negli anni 40, per poter dare l'avvio all'archivio provinciale, l'attuale archivio di Stato, il materiale, diciamo comunale, è stato dato in deposito all'archivio di Stato, e quindi capite che la storia diventa complessa. Quel volume edilizio è stato poi utilizzato per fare il museo del complesso di Sant'Antonio. Quindi se voi entrate in quel volume, che capite benissimo che è ottocentesco, ecco, vi accorgete che è una struttura moderna. Se poi guardate nella foto aerea lo riconoscete, perché è un grossissimo volume all'interno, alle spalle della cola. La persona Paolo Fino. Si ricorda? Sì, qualcosa. Ecco, questa è l'ultima notazione. No, questa è molto bella. Il contratto del Comune di Padova, che dava in concessione ai frati una parte, non ancora tutto il museo, una parte della zona del museo, il contratto stabiliva che il pagamento era fatto in oro fino, non in lire, ma in oro fino. Un gioiello di politica economica ecclesiastica. Mancava il cardinale di ruolo, diciamo, e poi era fatta. Ma avrete letto ultimamente polemiche anche sugli abusi che sta realizzando un nuncio apostolico, tra l'altro, che è ingegnere e che fa quello che vuole lui all'interno, quindi in grossa controversia con l'ARCA, è stato anche denunciato per abuso edilizio. Ecco, quindi non è vero che è città del Vaticano, cioè quindi è in concessione. Quello che non è ancora stato ben chiarito è perché i beni sono passati grazie al concordato, quello firmato da Mussolini. Però la proprietà dei beni mobili, per esempio, non è mai stata chiarita. Quindi è una situazione ancora molto, molto, molto labile, che non è stata risolta. A mio vedere il Comune di Padova poteva benissimo rimanere all'interno e pagare l'affitto come ha sempre pagato per la parte museale. Andiamo tutti a visitare la mostra? Domande? Scusa, ci raccontate qualcosa riguardo a quell'operazione che è stata fatta in libreria Pilsen? È stato un lavoro molto interessante, riguardava la necropoli paleovenita e tutta la storia della città. E la CLAC ha avuto un ruolo, mi pare, in quegli anni. Ma direi che noi abbiamo sempre seguito tutto quello che interessavano gli scavi archeologici, eccetera, anche per frenare idee malsane come quella della proposta di fare l'autosilos in Piazza Insurrezione. E poi abbiamo seguito anche, non so, per quello scavo in via Cesare Battisti, angolo via Santa Sofia. Ecco, come Palazzo Borromeo. Ecco, però attenzione, poi tante cose poi finiscono nel dimenticatoio, anche noi stessi, noi siamo stati o testimoni o protagonisti, ci siamo dimenticati. L'autosilos, allora hanno fatto tutte quante le prospezioni, i sondaggi, hanno trovato lo strato medievale, lo strato romano, lo strato paleoveneto, eccetera, e la sovrintendenza archeologica del Veneto, che ha sede a Padova, in via Aquileia, non ha dato il permesso di realizzarlo. La ditta, o meglio la cordata di ditte, ha fatto ricorso al Consiglio Superiore della Sovrintendenza, ovvero Ministero a Roma, che ha detto di sì. Quindi il progetto è stato approvato. La sovrintendente di allora, gli mancavano 3 mesi per andare in pensione, ha dato le dimissioni, si è dimessa. Insomma, è andata in pensione in anticipo, di qualche mese. Non è stato realizzato. Perché? Perché hanno messo in vendita i box, 30 milioni cada uno, non hanno raggiunto la cifra che rendeva l'operazione economicamente valida, quindi non è stato realizzato semplicemente per un problema economico. Come tanti altri progetti, di cui tutti stanno parlando, adesso il PP1 con la torre di 100 metri, eccetera, io ho quasi la certezza che non verrà realizzato. Tra l'altro il progetto non è mai stato presentato ufficialmente nelle sedi opportune, se no l'avrei visto in commissione. Io sono, come avete scritto nell'avviso, sono membro della commissione ambientale. Sono entrato, appena sono andato in pensione, siccome ho saputo che c'era il bando del comune, perché si entra per titoli, ecco, solo pensando al macello, quindi al vincolo che siamo riusciti a inserire negli anni 70, ho avuto la malsana idea di concorrere, per cui con 100 domande, se non so che centro di potere possa essere la Commissione ambientale, che si interessa solo delle aree che hanno vincolo paesaggistico. A Padova sono 2, il macello e l'area degli Eremitani. Mi onoro infatti di aver bocciato il progetto della trasformazione del museo civico, con interventi che sono totalmente fuori una programmazione seria del complesso museale. E poi le zone legate alla legge Galasso, che sarebbero i corsi, 150 metri dei corsi d'acqua. Quindi arrivano i progetti di quello che vuol mettere la recinzione, che vuol mettere il pannello solare, così. però arrivano anche i progetti che sono legati. Quindi vedremo se vogliono mettere cavane dappertutto lungo il Piovego. Penso proprio di no, ecco, perché ci sono delle competenze, peraltro, che non enormi della nostra commissione, ma in particolare tutti i progetti passano in sovrintendenza. Quindi la sovrintendenza è sempre allertata a dovere quando ci sono strane misure. Per esempio, avrete letto ai giornali che qui si voleva fare un asilo, che mi pare che sia il posto adatto, ecco, magari vicino all'obitorio, ecco, che sia. Oppure anche una grande struttura a cavallo delle mura con la biblioteca, roba di questo genere. Quindi sono dei sogni che, per carità, noi abbiamo fatto fare ai nostri studenti di ingegneria e architettura per anni, ma solo per fare delle esercitazioni, per vedere se sapevano progettare. Quando sappiamo benissimo che molte volte il miglior progetto è il vuoto. Ecco. Un bel prato verde, pensate per esempio all'esterno delle mura. Qui alle mie spalle, e abbiamo le fotografie, c'erano gli orti, ma questo per carità, c'era il grano turco, ma la cosa che non era piacevole è che le ortaglie venivano innaffiate con l'acqua della canaletta che viene dall'ospedale, ecco, direi che per fortuna adesso non lo fanno più. Altra cosa, con questo veramente finiamo, non so se avete letto tempo fa che un consigliere comunale si è lamentato perché c'è acqua nella fossa. Per fortuna c'è l'acqua nella fossa, anche perché lo dice la parola stessa, ecco. Hanno fatto dei lavori, adesso l'acqua della fossa va a finire nella canaletta che è intombata, ecco, che noi speriamo che un giorno sarà riaperta. Avete presente, se seguite la canaletta, c'è uno strano oggetto alla fine della canaletta. Sapete che cos'è? È una macchina idraulica, è un sollevatore, per cui quando l'acqua, capita molto raramente, del roncagliette è più alto della canaletta, allora si chiude la paratia e l'acqua della canaletta viene sormontata e buttata nel roncagliette, altrimenti l'acqua del roncagliette entrerebbe, farebbe sifone ed entrerebbe in ospedale. Ecco la ragione di quella macchina che a un certo punto uno, se non gli spiegavano come funzionava, non si rendeva conto dell'uso. Lavora rovescia. Siete stanchi? No. Il prossimo anno mi preparo meglio. Prepariamo meglio anche noi. E grazie allora a tutti voi che siete venuti, grazie a Vittorio e a Francesco. Ovviamente questo qui è stato un momento, credo, non solo bello, ma soprattutto non conclusivo, nel senso che il dialogo, il dibattito sia sul passato, ma soprattutto sulle nostre progettualità future, spero che ci sia sempre e che coinvolga sempre di più tutti quanti, perché quest'area ha una sua storia e speriamo che la storia continui e non finisca nel nulla, insomma, non finisca. Però dipende da noi, direi. Sì, non possiamo aspettare che gli altri ci facciano le cose. Bravi. Qua c'è ancora un po' di cibo se volete mangiare, c'è qualche birretta, c'è un po' di. Grazie.